Italia in controluce. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta. Un anno fa il terremoto in Emilia, due forti scosse il 20 e il 29 maggio, seguite poi da una terza, uccisero 28 persone, ne ferirono 300, furono 45.000 gli sfollati e i danni stimati in almeno 13 miliardi di euro. Parliamo di questo oggi in Italia in controluce, tempo del ricordo ma anche di un primo bilancio della ricostruzione che va avanti, ma come sempre le difficoltà non mancano. Chiediamo subito ai nostri ascoltatori se il nostro paese scorda troppo presto le sue ferite, pensiamo all'Aquila, o se qualcosa è cambiato sia nella ricostruzione che nella prevenzione. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Al sisma dell'Emilia Radio 24 sta dedicando un Radio Day con la nostra inviata Laura Bettini, l'abbiamo ascoltata in tante edizioni del giornale radio, impegnata nel territorio che rientra sotto le province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia. Allora Laura, se non sbaglio ti trovi a San Felice sul Panaro, Modena, insieme a Mirandola, tra i centri più colpiti. A distanza di un anno, qual è il bilancio in generale della ricostruzione per le quattro province, sia per le abitazioni che per il tessuto produttivo? Guarda Vincenzo, il bilancio è, come dire, è difficile da tirare. Io ho provato a parlarne poco fa con il presidente della provincia di Modena, lui stesso mi diceva il bicchiere è mezzo pieno, oppure qualcun altro potrebbe dire mezzo vuoto, a seconda di che parte della barricata ci si trova. Sicuramente rispetto a quando qualche mese fa compì lo stesso viaggio, erano allora 8-9 mesi dal terremoto, la situazione è molto molto migliorata. Effettivamente i centri storici, ieri sono stata anche a Finale Emilia, poi vedo questo di Mirandola, i centri storici sono stati riaperti, la situazione è decisamente migliorata. Certo c'è ancora molto da fare, e questo molto da fare spesso è imprigionato, visto che ormai i fondi sono arrivati, abbiamo parlato anche di quelli europei che sono arrivati copiosi per l'Emilia Romagna, ma sono arrivati anche per le altre due regioni colpite da questo stesso terremoto, che ricordiamo sono la Lombardia e il Veneto. Ecco, questi fondi sono arrivati quelli dello Stato, quindi ci si muove, ma ci si muove attraverso pastoie burocratiche che già più di una volta abbiamo denunciato e che continuano ad essere. Il presidente della provincia di Modena diceva che noi stessi stiamo istituendo dei gruppi di lavoro che accompagnino i cittadini, i privati per la ricostruzione di quello che riguarda le loro abitazioni, ma anche le imprese, accompagnino in modo da rendere la soluzione di questi problemi facile, perché tante volte le domande e le richieste vengono bocciate per ovvi motivi, perché manca magari qualcosa che è giusto che venga presentata, ma che non fanno altro che allungare i tempi della ricostruzione. Mentre ricostruire è chiaramente il primo passo per tornare alla vita di sempre. Quindi, per tornare a quello che tu mi chiedevi, qual è lo stato delle cose? Il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Ecco Laura, ma ecco, dalla tua visione empirica sul territorio, è più un problema che riguarda le abitazioni o le imprese? Leggevo una statistica che dava che una famiglia su tre sarebbe rientrata nella propria abitazione, forse qualche problema di più per le imprese, non so se questo corrisponde a realtà. Può essere che questa sia effettivamente la situazione, almeno per quello che io ho visto, però è comunque una famiglia su tre che non è a casa e imprese che non riescono a ripartire. Ci sono state molte iniziative, ne parliamo anche nel corso dei nostri giornali radio, proprio per aiutare le piccole imprese, perché magari le imprese più grandi ce l'hanno già fatta, hanno già riaperto, ricordiamo quelle grandi del biomedicale qui intorno a Mirandola, alcune sono ripartite decisamente così in forza già pochi mesi dopo il terremoto, ma ci sono poi quelle piccole, quelle medie, quelle piccolissime che magari sono soltanto esercizi commerciali che stentano a ripartire. Ora, se non riparte anche semplicemente un negozio, la famiglia che gestisce quel negozio non ha il denaro necessario per avviare magari i lavori di ricostruzione della propria casa, quindi è un serpente che si morde la coda e non si riesce a ripartire. Fortunatamente tanti sono stati coloro che si sono impegnati con il loro volontariato, insomma, per dare una mano a queste persone, quindi tante cose stanno decollando. forse meglio di altrove. Ecco, abbiamo purtroppo l'esempio dell'Aquila che ancora è in grandissime difficoltà nonostante gli anni che ormai sono passati dal terremoto. Laura, infatti un'ultima cosa ti volevo chiedere, vista anche la mia esperienza all'epoca del terremoto dell'Aquila, io ho visto che poi nella fase di ricostruzione si è andati proprio su due binari paralleli che forse al momento non si stanno toccando e non so quando torneranno ad unirsi, cioè da una parte il centro storico puntellato ma rimasto sostanzialmente chiuso. Quanto invece a queste province che tu stai visitando, si sta cercando di far rivivere da subito le vecchie realtà? Si sta cercando di far rivivere da subito proprio perché c'è stata ed è ben nota l'esperienza dell'Aquila. Ho presente anche una sorta di, chiamiamolo così, gemellaggio, ad esempio tra la città di Ferrara e quella dell'Aquila. Si sono riuniti in dei comitati proprio per studiare quello che non è andato all'Aquila ed evitare di ripeterlo in queste città. Sono cambiate anche le normative nel frattempo di protezione civile, quindi ovviamente la situazione è diversa anche per legge, ma è diversa proprio perché c'è stata quell'esperienza. Qui i centri storici sono continuamente interessati da lavori, purtroppo alcuni di abbattimento, ma molti altri anche di ricostruzione e consolidamento. Quindi ci sono state recentemente appunto l'inaugurazione del centro storico, la riapertura del centro storico di Mirandola, c'è stata in passato quella di Finale o Presente, ci sono tanti paesi che si sono impegnati lì, ma perché per un paese piccolo quello è la vita, c'è la chiesa, c'è il bar, c'è la piazza in cui riunirsi, ci sono il centro per gli anziani, il comune, non far ripartire questi piccoli centri dalla parte storica vuol dire condannarli quasi a morte. Bene, grazie Laura Bettini, la nostra inviata nelle province più colpite dal terremoto dell'Emilia, e quello che diceva Laura lo ritroviamo anche negli sms dei nostri ascoltatori. La burocrazia ci sta uccidendo, non c'era riuscito il terremoto, ci scrive Corrado da Mirandola, ci si ricorda dei terremoti che finiscono male, della Basilicata ma non del Friuli, scrive Andrea, parlate sempre dell'Emilia quando un'Aquila Day, scrive Giorgio. Andiamo adesso a San Felice del Panaro, quindi rimaniamo Mirandola, San Felice del Panaro, zone molto limitrofe, ed è con noi il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Presidente Armando Zambrano. Buongiorno Zambrano, buongiorno. Per chiederle questo, perché oggi il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si trova proprio lì e si riunisce a San Felice sul Panaro? Beh, noi abbiamo deciso di fare questa manifestazione a San Felice innanzitutto per ringraziare i 500 colleghi ingegneri che si sono messi a disposizione quando abbiamo chiesto la disponibilità per fare delle verifiche per consentire alle persone di rientrare nelle abitazioni. Questi 500 colleghi hanno lavorato. Noi già il 3 giugno, a pochi giorni dal terremoto, avevamo le prime squadre in campo, hanno elaborato più di 10.000 perizie, più di un quarto di quelle che sono state complessivamente redatte, consentendo al 25% della popolazione di rientrare immediatamente con tranquillità. Quindi ecco, grazie al vostro aiuto, grazie all'aiuto di tanti ingegneri volontari, i tempi sono stati accelerati per il rientro. Ecco, non sento più il Presidente del Consiglio Armando Zambrano del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Allora, io adesso leggerei degli sms che sono molto interessanti. La nostra Laura Bettini ricordava le province dell'Emilia colpite dal terremoto, ma ricordiamo anche le zone limitrofe della Lombardia e del Veneto. Un nostro ascoltatore infatti ci scrive: Mantova non sembra essere in Italia, noi abitiamo ancora in una stalla, scrive Adelaide da San Giovanni anni del Dosso, la sensazione è che qui abbiamo ricevuto più aiuti che all'Aquila, scrive un altro ascoltatore, e un altro ascoltatore ancora ci invita a ricordare il sisma dell'Emilia ma anche il sisma dell'Aquila. Insomma, la situazione della ricostruzione tra Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia sembra stia andando avanti, c'è ancora tanto da fare, seguiremo ancora tutta la giornata la ricostruzione dell'Emilia. Per Italia in controluce è tutto, un saluto da Vincenzo Miglietta.